9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci. E a proposito di bestie feroci, titolo del Fatto Quotidiano: Bersani rottama D'Alema. Titolo di Repubblica: PD in subbuglio, lite sulla rottamazione. Si tratta di scegliere le gabbie allo zoo del PD. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera. Vengo anch'io. Per la primavera, per alcuni non lo è. Titolo in prima sul Fatto Quotidiano: Tangenti e delibere, Formigoni favori CL. Titolo in prima su Libero: Patto con il Cavaliere, la Lombardia a Maroni. Ma Libero credono che Formigoni sia stato informato che il Cavaliere vuole Maroni in Lombardia. Vengo anch'io, no, vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. Sì, ma il mondo migliore non è quello della legge di stabilità, visto che basta che voi contraiate un mutuo ventennale per 130.000 euro, e a quel punto con la nuova legge di stabilità vi potrete dimenticare qualunque detrazione del fisco, sia per l'assicurazione alla vita, sia per le spese di istruzione dei figli, sia per quelle dell'affitto agli studenti fuori sede, sia per bambini, anziani, eccetera eccetera. Basta quello per abbattere ogni franchigia. Qualcuno non ha saputo fare bene i conti, o pensa che gli italiani siano improvvisamente arricchiti. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Allora, per tentare di evitare la morte complessiva, insomma, segnaliamo comunque che c'è una misura che ci fa ben sperare: l'introduzione dell'IVA per cassa da dicembre, e un'IVA per cassa di un regime, diciamo, limitato, e per coloro che hanno un giro d'affari inferiore ai 2 milioni. Però che vi devo dire, almeno questa norma di civiltà che dovrebbe valere per tutti, cioè che bisognerebbe stabilire che ovviamente il versamento dell'IVA si fa solo una volta che si è incassato davvero ciò che si è fatturato, quantomeno comunque è riservata a una parte dei contribuenti del giro d'affari molto piccolo. Vigileremo, e prometto che lo faremo, sul fatto che almeno in questa misura lo Stato tenti di essere meno ladrone di quanto non è di solito nell'ordinamento e anche in questa legge di stabilità. Tra l'altro molti ci hanno chiesto ieri: ma come non avete commentato l'intervista di 2 pagine sul Sole 24 Ore del ministro Fornero, in cui abbastanza spettacolarmente il ministro Fornero ammette che tutte le vostre critiche, o meglio buona parte delle vostre critiche alla sua riforma, erano fondate e che bisogna rimettere mano alla sua stessa riforma? Cioè il ministro ieri ha ammesso che per tutte le forme di entrata nel mercato del lavoro diverse dal contratto a tempo indeterminato, cioè quelle su cui loro hanno messo il giro di vite, bisogna in effetti metterci mano perché si crea più disoccupazione, come vi abbiamo puntualmente detto. Non ci pare molto utile infierire, a volte per questo non lo abbiamo fatto. Allora, andiamo al tema del giorno. Dopo aver dato l'augurio a chi festeggia il santo del giorno, oggi è Sant'Ignazio in Antiochia, e devo correggermi perché io naturalmente sono stato, tra le altre buone ragioni, selvaggiamente ripreso da mia moglie moglie, perché ieri vi ho detto Santa Edvige, ieri era una delle ho preso che sono quattro sante margherite, naturalmente mia moglie si chiama Margherita, ieri era Margherita alla Coq, cosa che non è un uovo ma posso giurare che esiste, e poi mi scuso con tutte le margherite alla Coq, andate in padella, ecco, questo è quello che ho da dirvi. Allora, oggi ci occupiamo di uno dei documenti varati dal governo che mette riparo a un buco di anni nella nostra programmazione legislativa, e lo fa su un tema che è di quelli decisivi, cioè un tema sul quale perdiamo più di 6 punti di PIL in termini di bilancio dei pagamenti. E questo tema è l'energia, e stiamo parlando appunto della nuova strategia energetica nazionale. Noi eravamo reduci da non avere per anni e anni il piano energetico, e quindi da questo punto di vista tentiamo oggi capire se questo documento varato dal governo sana in maniera significativa almeno alcuni dei punti per cui abbiamo un mix energetico, ce ne siamo occupati tante volte, che è molto lontano naturalmente dall'essere ottimale. Il documento, diciamo così, sono una cinquantina di pagine. Oggi è da ieri è aperto alla consultazione di tutti i players del settore. Tra le cose roboanti che promette 180 miliardi di euro di investimento di qui al 2020 nella green economy e white economy, e anche nei settori tradizionali, pone naturalmente al 2020 come orizzonte di riferimento e la strategia è un'evoluzione nell'ambito di quella 2020-2020, ma superandola ancora con obiettivi più ambiziosi. Tanto è vero che nell'agenda si pone l'obiettivo di abbattere del 19% le emissioni di gas serra, quindi superando gli obiettivi europei per l'Italia, che erano pari al 18%. Io su questo ho i miei forti dubbi, perché questa gara a voler sembrare i più fighi dei fighi mi pare che abbia dei costi industriali molto forti nel momento nel quale stiamo per esempio uscendo da tutti gli energivori, perché l'effetto combinato e disposto di vicende come quella Alcoa in Sardegna, dello spegnimento dell'Ilva a Taranto, in aggiunta ci sono oramai sequestri e richieste di abbattimento dei lavori, di chiusura dei lavori anche nei cementifici oramai da parte della magistratura, mi fa pensare che questa gara ad innalzare ulteriormente i livelli di emissioni, vediamo, conti alla mano, se è compatibile. Ricordo a tutti, prima di presentarmi ancora agli ospiti, che siamo poi freschi freschi da una grande frenata su conto energia, per capirci, sugli incentivi dati a alcuni segmenti rinnovabili, fotovoltaico eccetera, con code e polemiche molto lunghe su chi aveva investito e dice questo è un paese naturalmente inaffidabile perché modifica il quadro degli incentivi a gioco in corso troppo spesso, ogni semestre, una volta all'anno, mentre invece chi investe ha bisogno di una certezza pluriennale. E dall'altra parte c'è chi dice sì, ma voi facevate un ROE oramai superiore al 20% mentre la manifattura chiude. Insomma, i punti sono tanti. Allora, vediamo di capirne di più. Abbiamo con noi in studio innanzitutto Pietro Colucci, che è un past president di Assoambiente, cioè l'associazione imprese e servizi ambientali di Confindustria, e che ha imprese esattamente nel campo delle energie rinnovabili. Buongiorno Colucci. Buongiorno a tutti. E con noi Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Stagnaro. Buongiorno. Allora Stagnaro, posso chiederle, altri ospiti poi si aggiungeranno dopo le 9.30, posso chiederle intanto, Stagnaro, dal suo punto di vista, ci dà un inquadramento complessivo dal suo punto di vista sulla credibilità generale di questi strumenti e obiettivi posti da questo piano, se è una specie di toppa su un buco oppure se effettivamente mette in moto qualche novità e di che tipo, e quali sarebbero secondo lei gli obiettivi più concreti raggiungibili mentre e insieme ai più ambiziosi non raggiungibili di questo piano? Ma c'è sicuramente una novità positiva e poi ci sono alcuni aspetti invece più critici. La novità positiva della strategia energetica nazionale, per come è stata pubblicata, è che ci troviamo per la prima volta di fronte a un documento chiaro dal punto di vista quantitativo, e quindi tutti quanti siamo in grado di fare obiezioni o di sostenere le tesi che vengono affermate dalla strategia, avendo la testa nei fatti, avendo la testa nella credibilità o meno degli scenari presentati, e non sulla base di slogan più o meno ambiziosi come a cui eravamo abituati nel passato. Il secondo aspetto positivo è il metodo, il il governo decide di creare un documento del genere e di metterlo in consultazione in maniera tale da interagire in maniera pubblica e trasparente con tutti gli stakeholder, dagli operatori del settore, agli osservatori, agli analisti, agli studiosi, gli interessi rappresentati e così via. E questi sono sicuramente elementi positivi. Ci sono però anche una serie di criticità di ordine generale, poi immagino entreremo nel merito di questioni più specifiche, ma dal punto di vista generale ci sono almeno due tipi di problemi. Il primo è che non è chiarissimo, almeno non è chiaro a me, cosa siano i numeri che abbiamo davanti. Un conto è se essi rappresentano una visione, uno scenario che il governo propone alla società italiana, con la consapevolezza che la realtà si può anche discostare di molto. Altra cosa è se questi sono obiettivi più o meno vincolanti. In questo secondo caso, al di là di una serie di critiche che io personalmente farei, nel senso che non credo che obiettivi vincolanti di questo genere siano compatibili con un mercato concorrenziale quale è quello che abbiamo, manca quasi totalmente qualunque riflessione sugli strumenti che dovrebbero essere adottati per raggiungere questi obiettivi. Altro aspetto critico, e qui cominciamo a entrare nel merito di quello che è scritto nella strategia, a me pare che, supponendo che i numeri che abbiamo di fronte siano obiettivi, gli obiettivi che vengono assegnati ai vari comparti, dall'efficienza energetica allo sviluppo della produzione nazionale di petrolio e gas, allo sviluppo delle fonti rinnovabili e così via, abbiano una scarsa coerenza interna, o meglio, la coerenza interna dipende da una serie di ipotesi molto forti, per esempio una enorme riduzione dell'import elettrico, che sono dal mio punto di vista relativamente realistiche, così come tutti gli obiettivi messi in fila sono scarsamente coerenti con quello che la strategia individua come l'obiettivo principe, cioè la riduzione dei prezzi, vale a dire molte delle misure più o meno lasciate balenare dalla strategia porterebbero, immagino, a un aumento dei prezzi, in particolare dei prezzi elettrici, non al suo contrario. Allora, su questo ultimo punto, io prima di chiedere esattamente la stessa cosa a Pietro Colucci, cioè che impressione ha lui in generale, cosa pensa che sia più realizzabile, interessante, cosa pensa che sia velleitario alla prima giudizio generale di questo piano. La dico quello che a me sembra particolarmente irrealizzabile, cioè io propendo per il fatto che questo sia un documento declaratorio. Da come lo leggo io, purtroppo, non è affatto la griglia di scelte operative che conseguiranno per rendere perseguibili questi obiettivi. In particolare, per esempio, se si dice di puntare all'alimento dei prezzi all'ingrosso italiano rispetto ai livelli europei per tutte le fonti energetiche, gas, carburanti, elettricità, questa o mi si dice come si fa o altrimenti il gap, la distanza rispetto ai quali siamo sulla media europea è tale, discendente dal mix energetico, che comporterebbe degli interventi sul mix energetico pesantissimi, e qui non è che vengano indicati come si fa. Perché dire possiamo abbassare la dipendenza dall'estero dall'84% complessiva del nostro fabbisogno al 67%, questa è una cosa realizzabile. Che lo si faccia solo con l'efficienza energetica, io non ci credo, cioè ci vuole un aumento delle rinnovabili a questo punto, secondo me un po' più forte di quello che sembra conseguire dall'ultimo conto energetico. Dopodiché la mia obiezione è che gli obiettivi quantitativi che vengono posti qua, l'ho già detto, 19% di emissione di gas serra, superando gli obiettivi che ci aveva dato l'Europa, ma anche la riduzione dei consumi primari, la riduzione dei consumi primari del 24% rispetto all'andamento 2020, il che significa andare indietro del meno 4% rispetto al 2010, ci sta pensando la recessione a farlo in Italia, ecco, ma solo quella la componente, perché se dovessimo pensare a un livello di sviluppo che torna verso il 2%, non so quanto tutte queste cose siano perseguibili. Allora, Colucci, che pensa intanto di questo documento, e vizi e difetti, ma anche pregi? Dunque, il primo pregio è senz'altro quello che esiste il documento. Ricorderà che qui dai microfoni di questa radio, qualche mese fa, ci auguravamo che il governo intervenisse per riparare a un danno oggettivo, cioè quello di camminare nel settore così importante e strategico per il paese a vista, cioè senza un piano che datava ormai 20 anni. Quindi il fatto che oggi il governo in così pochi mesi si sia preso la briga di mettere mano a un aspetto così importante dal punto di vista strategico è senz'altro un merito che gli va riconosciuto. E devo dire, gli va dato atto anche del metodo, nel senso che la consultazione pubblica, che è una procedura assolutamente innovativa rispetto al passato, è vero che lascia aperti gli varchi rispetto a chi verrà ascoltato nella realtà e quali poi suggerimenti verranno effettivamente adottati e resi trasformati, come dire, in operazioni, ma sicuramente è una novità che è assolutamente inconcepibile per il paese. Quindi su questi aspetti bisogna dare atto che c'è un cambiamento di passo. È chiaro che noi abbiamo vissuto, citando il vecchio adagio, il dramma della citazione che dice: una visione senza un piano è un sogno, un piano senza una visione è un incubo. Noi siamo stati anni con tanti piani, il piano sulle energie rinnovabili, il famoso 20-20-20 di Kyoto, poi ripreso dall'Europa, che era il piano sulle rinnovabili, poi il piano del gas che doveva sostituire il petrolio, anzi prima di quello, post referendum sul nucleare di Chernobyl, e infine il piano del nucleare l'anno scorso, in cui il governo maldestramente tentò di inserire un ennesimo piano senza dare una visione globale d'insieme. Quindi quello era senz'altro un incubo. Oggi il rischio, e questo è così entriamo nel merito del documento, è quello di avere una visione senza un piano. Cioè oggi si dice: questa è l'indicazione che noi vorremmo dare, un indirizzo strategico, quando però se non lo si declina in una serie di attività, in una serie di azioni concrete nel realizzare questi obiettivi, ovviamente brancoliamo di nuovo nel buio. Perché dico questo? Perché ci sono due aspetti. Proprio sulle rinnovabili, su cui diciamo il dente è scoperto, perché il quinto conto energia tante polemiche ha creato in questi anni, anche come dicotomia rispetto al nucleare, è stato uno dei, diciamo, dei leitmotiv del referendum che poi l'ha abolito. Parlano di un incremento del consumo di energie da fonti rinnovabili che dovrebbe arrivare addirittura al 36-38%. Benissimo, non bene. È chiaro che però, per far questo, vuol dire, anche un bambino con un abaco scoprirebbe che se abbiamo 330 terawattora di consumi anno e oggi siamo al 25%, dobbiamo arrivare al 38%, sono 13 punti percentuali, significano 45 terawattora in 8 anni, dobbiamo marciare con 3-4 gigawatt di installazione nuove di rinnovabili all'anno. Se il governo ha stabilito incentivi che per l'eolico danno 500 megawatt, quando invece ha sempre viaggiato con circa un gigawatt l'anno, e per il fotovoltaico ancora meno, la domanda è: come facciamo ad arrivare alla scadenza del 2020? Infatti è la stessa domanda che dicevo io prima, non mi tornavano i conti, a meno che, perché questo lo dico poi a voi che avete un'impresa investitori, se io dovessi ricavare dalla lettura del nuovo documento rispetto all'ultimo conto energia, lo dovessi prendere come un obiettivo stringente, cioè che annuncia che si va davvero in quella direzione, dovrei dire: vabbè, allora ci avete dato un falso segnale pochi mesi fa, perché bisogna tornare a reinvestire. No, corretto. E il tema è questo: io non vorrei che il rischio sia arrivare al 2020 e poi trovare qualcuno che ti allarga le braccia dicendo: sì, ma quelli erano obiettivi, il mercato è completamente liberalizzato, ha fatto meglio qualcuno rispetto a voi, signore e signori, rivediamo gli obiettivi. C'è un indicatore che potrebbe aiutare a capire il consumo, la riduzione dei consumi energetici certamente stringe la forbice, cioè se i terawattora annui si riducessero per effetto della crisi, ma anche per effetto dell'efficienza energetica, che è, come dire, il grande progetto su cui la stessa Confindustria ha puntato facendo un grande piano che prevedeva 1 milione di posti di lavoro nuovi, centinaia di miliardi di investimenti nei prossimi anni. Se quello dovesse intervenire, allora i consumi potrebbero stringersi e la percentuale dei rinnovabili potrebbe aumentare indipendentemente dalle nuove installazioni. Ma così non può essere in un tempo così breve. Tenga conto che a livello europeo Germania e Olanda stanno addirittura facendo roadmap al 2050, ma la maggior parte dei paesi si muovono in ottica al 2030. 8 anni in un mondo di infrastrutture sono dietro l'angolo. Allora, pensare di trasformare l'Italia in un hub, sub-hub del gas, facendo rigassificatori, in 8 anni, dove dopo 11 anni British Gas ha lasciato il paese e se n'è andato perché non è riuscito a fare quella Brindisi, è una follia. O almeno è l'effetto annuncio. Benissimo. Però voglio dire, poi alla fine bisogna confrontarsi con una realtà che, quando parla di infrastrutture, coinvolge operatori, banche, amministrazioni comunali, provinciali, il cambiamento del titolo quinto, che è quello che impone, cioè che toglie la legislazione statale, la trasferisce alle regioni, con tutti, diciamo, i cavilli, i codicilli, i diritti di veto che hanno. Dicono che vogliono cambiarlo, ci riusciranno in 5-6 mesi che gli mancano fino a fine legislatura? No, questo sappiamo che no, quindi anche quello è effetto annuncio. Benissimo per il piano, benissimo per l'idea, benissimo per il metodo, devo dire, un po' di maggiore scetticismo, o almeno di richiesta di maggiore concretezza al governo sul piano che dovrebbe seguire questo annuncio. Sagnano, lei che dice su questi obiettivi quantitativi delle rinnovabili, di nuovo così estesi rispetto al conto energia ultimo? Ma ancora una volta fatico a conciliare questi obiettivi con l'altro obiettivo di far ridurre i prezzi. Dopodiché noi sulle rinnovabili abbiamo fatto tutto il contrario di tutto. A me pare che la cosa più banale che si possa fare, senza andare a fare tanti discorsi su introdurre l'ennesimo nuovo schema di incentivi, sia rimuovere la Robin Tax che colpisce le rinnovabili, così come tutte le attività energetiche, creando una distorsione assolutamente incomprensibile e ingiustificata. Di tutto questo non c'è il minimo accenno. Oltre a questo, fatico a mettere assieme, se lo prendiamo per buono, lo sviluppo di rinnovabili ed efficienza energetica da un lato, con la promessa, tra virgolette, di far funzionare a pieno carico il parco termoelettrico esistente e addirittura riavviare la ricerca e produzione di gas naturale, in particolare in Italia. Sono tutti obiettivi più o meno condivisibili, ripeto, fatico a vederli tutti assieme, mi sembra che siano negativamente correlati l'uno con l'altro. Allora, fino a questo momento, come avrete capito, il giudizio prevalente è quello di un sorriso scettico accompagnato da qualche grattata di testa e anche da qualche bocciatura. E con noi Pietro Colucci, imprenditore, ex presidente di Assoambiente, imprenditore del ramo del rinnovabile, con noi Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Ci hanno fatto capire come molti di questi obiettivi siano anche apprezzabili, ma un po' disorganici tra loro, incoerenti con scelte recenti tipo quelle del conto energia, e soprattutto prive poi di strumenti attuativi, se li si dovesse prendere sul serio. Quindi un po' incoerenti anche da una parte con la libertà del mercato e dall'altra con l'obiettivo che è quello dell'allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei di tutti i prezzi delle diverse fonti energetiche. Lasciatemi dire, prima di presentarvi i nostri ospiti, che ieri quando ho letto, anzi stamane quando ho letto, vi ho salvato la vita, tra virgolette, credevo fosse la nuova dichiarazione di Berlusconi al PDL, invece poi è la dichiarazione di Schettino ai naufraghi, e quindi mi sono naturalmente stropicciato le dita. Non me le sono stropicciate, ma mi è venuta molta voglia invece di, mi prudevano le mani quando ho rivisto l'aggiornamento da parte dei Rizzo, della premiata ditta Stella e Rizzo sul Corriere della Sera, del fatto che i magistrati naturalmente lamentano che vi siano 1255 unità non coperte nel loro ruolo, ma naturalmente poi ce ne sono 219 che fanno i topi nel formaggio ai ministeri, e sono oltre quota prevista dei ministeri, per dire che ai ministeri naturalmente si acchiappa potere, e questo in relazione alla famosa sentenza che ieri abbiamo commentato, che mi è valsa molte mail di insulti. Continuo a dire, mi avete sentito difendere in termini di equità la norma, la sentenza della Corte Costituzionale che ha detto restituiamo i soldi ai magistrati per i contributi di solidarietà e per gli adeguamenti automatici, che si è detto testualmente sarebbero garanzia della loro serenità e indipendenza. Gli adeguamenti automatici, quelli che abbiamo levato alle pensioni minime, non prendiamoci per i fondelli. Ho difeso la sentenza, ma ho scritto che quella norma è uscita dal Tesoro, dalla Ragioneria Generale, apposta per essere cassata, e io sono indignato nell'avere in ragioneria delle apicalità amministrative che scrivono apposta le norme suicidio, apposta, perché essendo loro i beneficiari di quella norma, quando apriremo gli occhi su come funziona la pubblica amministrazione apicale in Italia, avremmo fatto un altro passo in avanti nel diventare di nuovo cittadini non sudditi. Allora, i nuovi ospiti per sentire la loro opinione insieme a quella di Colucci e di Stagnaro sulla strategia energetica, si è aggiunto con noi Gianni Silvestrini, che è direttore del Kyoto Club e direttore scientifico del portale QualeEnergia.it. Buongiorno e grazie Silvestrini. Buongiorno a voi. E Maurizio Melis, che su questa voce e su questa rete conoscete benissimo, lo conoscete benissimo per trasmissioni che abbiamo da anni dedicato proprio per esempio all'obiettivo dell'efficienza energetica, uno dei purtroppo delle vie poco battute ancora nel nostro paese, con programmi di approfondimento scientifico, il programma che sta conducendo in questa fase è Smart Cities, e siccome è un grande esperto di scienze dell'energia, l'ho chiamato perché è anche mio amico. Maurizio Melis, buongiorno, grazie a te. Buongiorno Oscar, grazie dell'invito. Allora Maurizio, iniziamo un secondo da te. Che impressione hai di questa strategia energetica nazionale? Non so se hai sentito quello che dicevamo prima, se sei più buono o un pochino più cattivo che tu. Diciamo che sono abbastanza, insomma mi allineo abbastanza, nel senso che mi sembra un po', diciamo, un libro dei sogni. In realtà fino a un certo punto gli obiettivi all'interno sono contraddittori. Quello forse mi sembra più contraddittorio è il fatto che si possa promettere a tutte queste centrali a gas che sono comparse nel paese negli ultimi anni di farle lavorare abbastanza ore, insomma, da stare in piedi da sole, o comunque abbastanza ore, perché dall'altro lato appunto si sostanzialmente si nega il capacity payment. Questa, diciamo, era un'ipotesi che c'era, cioè quella di dare dei soldi a queste centrali per rimanere spente. Questa è un'ipotesi che sembra il governo abbia eliminato. Più che altro mi sembra impossibile fare tutte queste cose in 8 anni e con le risorse che ci sono a disposizione, che peraltro non sappiamo ancora bene quali sono, perché mancano i famosi decreti attuativi ancora del decreto 28, che si attendono, quelli per esempio stabiliranno quante risorse andranno sulle rinnovabili termiche e cose di questo genere. Se posso diciamo, accendere una luce di speranza, è questa: paradossalmente il nostro paese, che appunto ha degli elementi di inefficienza enorme, ogni tanto mi viene da pensare che questo in un certo senso è il nostro punto di forza, nel senso che vuol dire che abbiamo dei margini di miglioramento notevolissimi. Ecco, nella governance, per quanto riguarda il sistema energetico, ci sono margini di miglioramento notevolissimi. Sul gas, per esempio, per ridurre i costi, oggi se fossimo in grado di accedere al mercato dello shale gas americano, lo shale gas in America ha rivoluzionato il mercato americano, riducendo da $8 a $2 a MBTU, questa strana unità un po' medievale di misura del gas, il costo del gas, quindi ridotto di 4 volte. Se noi riuscissimo per esempio con il rigassificatore ad accedere a questo tipo di mercati, non è facilissimo perché il mercato del gas è proprio diviso per aree geografiche, ma effettivamente con tutta l'energia elettrica che produciamo col gas potremmo ridurre il costo dell'energia. Per quanto riguarda lo sviluppo della rete, da anni attendiamo di superare questa situazione per cui la rete italiana sostanzialmente è divisa in 6 zone, ognuna delle quali ha un suo mercato interno, e questo, diciamo, però il costo complessivo dell'energia poi viene spalmato esatto, su tutti, mentre ci sono delle aree che sono molto inefficienti nel produrre energia e pagano gli altri. L'eliminazione, il superamento del PUN, il prezzo unico nazionale, può dare una bella accelerata alla risoluzione di una serie di problemi di questo genere sulla rete. Anche questa è una situazione abbastanza paradossale, la divisione. Per esempio, se pensiamo a un altro problema, che è quello che la crescita delle rinnovabili determinano la necessità di accumulare più energia o di farla circolare in modo più efficiente, è vero che ci vogliono delle infrastrutture, e questo secondo me è un tema molto sottovalutato. Ci vogliono enormi quantitativi di infrastrutture per aumentare significativamente la quota di rinnovabili non programmabili che mettiamo in rete, come il sole e il vento, insomma, che vanno e vengono. Però è anche vero che abbiamo dei sistemi di ripompaggio molto efficienti che stiamo utilizzando a un sesto in questo momento, perché sono in mano a un singolo operatore che giustamente, come dire, legittimamente fa i propri conti, e siccome oggi il costo dell'energia di giorno e di notte è praticamente lo stesso per effetto proprio del fotovoltaico e delle rinnovabili, ma in particolare del fotovoltaico, questi sistemi di ripompaggio non vengono utilizzati. Ora lì si può immaginare un modo per far sì che vengano utilizzati di più e messi al servizio della crescita delle rinnovabili, perché questo è uno dei punti secondo me più critici e meno risolti. Questo significa un intervento diretto, diciamo così, regolatorio sull'incumbent, per essere chiaro. No, senza boh, è così. Io quindi non lo so, però secondo me questi problemi vanno un pochettino affrontati, perché altrimenti il risultato è che cominciamo a fare robe assurde, come magari incentivare gli accumuli sotto forma di batteria, che secondo me questo sarebbe un suicidio dal punto di vista economico, perché la tecnologia non è matura, salvo per situazioni molto particolari, certo, molto specifiche. E poi naturalmente paga sempre pantalone, cioè dobbiamo far pagare a qualcuno questi investimenti. E purtroppo li faremo pagare in bolletta poi. Esatto. Appunto, la bolletta ormai diciamo che è arrivata decisamente al limite, anzi si può solo cercare ben di ridurla, non limiti, si può pensare. Consideriamo che un po' di queste robe andranno sulla bolletta del gas, ma lì l'incidenza sarà piccolissima. Si parla di 900 milioni di euro per quanto riguarda gli incentivi alle termiche, però lì veramente rispetto alla bolletta del gas è molto poco, e può invece fare molto perché l'efficienza energetica costa molto ma molto meno. Pensate che i certificati bianchi che servono per finanziare l'efficienza energetica o una delle modalità per finanziare l'efficienza energetica e il fotovoltaico, se noi consideriamo a parità di energia risparmiata o prodotta attraverso le rinnovabili, beh, c'è una differenza di costo nei sistemi di incentivazione alle nostre spalle di 1 a 25. Allora, io ringrazio Maurizio perché ci ha dato una rapidissima carrellata dai problemi, diciamo così, della separazione per infrastrutture di rete di trasporto di energia elettrica e quindi sovraccosto relativo ai costi di produzione e come questo si riflette nel prezzo unico, al problema, diciamo così, di come l'incumbent, cioè l'ex monopolista, esercita a proprio vantaggio il ripompaggio che riequilibra i costi al momento di picco marginale, dove intervengono naturalmente le fonti più costose e quindi per premiare tutti l'incumbent gradua molto i suoi interventi, fino a, allo shale gas, problema delicatissimo. In questo paese noi, lo ricordo a tutti, siamo un paese che ha fatto saltare un semplice stoccaggio di gas in profondità di cui si parlava da anni in Emilia dopo il terremoto, perché lo abbiamo confuso col fracking, dicendo che il fracking sconvolge il pianeta e fa venire i sismi. Quindi siamo un paese un po' delicato su queste cose qua, ma Maurizio ci ha dato una panoramica molto ampia. Eccoci tornati in studio con il mio amato Jim Morrison, This is the End. Insomma, anche oggi lo facciamo come esorcismo. Alberto da Roma, intanto. Alberto da Roma, una rapida testimonianza, prego. Alberto, sì, ci sente? Sì. Pronto? Sì, dica, vada. Buongiorno, senta, io ho fatto un impianto fotovoltaico di 15 kW l'anno scorso e mi sono allacciato in rete il 30 dicembre 2011. Ora, a 10 mesi di distanza, ancora la pratica non è conclusa, cioè la pratica è conclusa ad aprile, ma praticamente ancora non ho preso un centesimo né dal DSE né dalla CEA, alla quale ho scaricato in rete più di 20.000 kW, e assolutamente non ti rispondono, non ti pagano, non ti dicono quello che devi fare. Io mi chiedo se in questo paese si può investire qualcosa per avere questi risultati. Bene, GSA, ci abbiamo capito, adesso vediamo la risposta a chi dei nostri alpini la dà. Simone da Verona, prego Simone. Sì, salve, buongiorno, Simone da Verona. Niente, noi siamo un'azienda che lavora nel Veneto, un'azienda che fa fondamentalmente contratti chiavi in mano, industriali, per cui si parla di impianti dai 500 kW al megawatt. Molto semplicemente volevo dire, siamo cresciuti tantissimo, oggi noi siamo costretti a licenziare i ragazzi, perché alla fine sono tutti ingegneri e periti assunti da noi, semplicemente perché il fotovoltaico è letteralmente morto. Una delle testimonianze è il fatto che il quinto conto energia prevede l'iscrizione al registro, cioè l'accesso alle tariffe incentivanti, oltre i 12 kW, cioè 12 kW, esattamente. Uno che vuole fare un impianto, un'azienda che i 100, 200, 500 kW potrebbe essere consona ai loro fabbisogni energetici, deve iscriversi a questo registro che ha tempi ovviamente lunghissimi, dilata i tempi decisionali, i finanziamenti alle banche che ovviamente non vanno a finanziare. Chiarissimo, Simone, no, ma noi di questo abbiamo molte volte parlato, diciamo il freno del quinto conto è fatto anche di adempimenti, per così dire, quindi un freno voluto rispetto agli eccessi prima, per chi ha investito si è trovato di mezzo. Allora Silvestrini, che dice intanto della strategia energetica nazionale? Ma io condivido molti dei commenti che sono stati fatti. Innanzitutto si prende atto che è cambiato il mondo dell'energia, e se si analizzano le previsioni degli investimenti nei prossimi anni, si vede che sono 72% su efficienza rinnovabili contro il resto sulla parte convenzionale, infrastrutture, centrali, elettrodotti, rigassificatori. E l'Europa che è cambiata, l'Italia prende atto di questo cambiamento. Dopodiché sono pure d'accordo che è molto un vorrei ma non posso, nel senso che ci sono obiettivi molto ambiziosi, coerenti con quelli di altri paesi. Ricordo che la Germania la settimana scorsa ha alzato i suoi obiettivi di rinnovabili elettriche del 35-40% al 2020, quindi c'è questa accelerazione. Giustamente viene posto il tema dei costi. Allora io qui vorrei lanciare un elemento di ottimismo, nel senso che il fotovoltaico, che è stato gestito male, nel senso che sono stati dati troppi incentivi negli anni passati, quindi si è accompagnata male il percorso verso la grid parity, l'ultimo intervento lo diceva, il registro è un'assurdità, si poteva tranquillamente ottenere lo stesso risultato di evitare l'incremento delle bollette semplicemente con una riduzione progressiva all'aumento del numero di impianti come fanno i tedeschi. Ma dicevo, l'elemento positivo è che dall'anno prossimo il fotovoltaico potrà camminare con le proprie gambe senza incentivi. Facendo due calcoli, l'incremento di estrazione di gas che viene previsto nella strategia energetica nazionale, sono 3,7 miliardi di metri cubi all'anno, l'incremento del 45% rispetto a oggi, la stessa quantità di gas potrebbe essere ridotta in termini di importazione installando 14 gigawatt di fotovoltaico, che è meno di quanto è stato installato nel periodo 2008-2012. Lei ci sta dicendo che bisognerebbe ricambiare cosa? Cioè il fotovoltaico rispetto alla botta negativa dovremmo tornare a un fortissimo sviluppo invece? Ma è già così, molte imprese italiane stanno orientandosi fortunatamente a installare senza incentivi, in particolare nel centro-sud Italia. Naturalmente per ottenere questo risultato bisogna liberalizzare il mercato, perché in questo momento non lo è, consentire a un investitore di installare il fotovoltaico sul tetto di un'impresa e vendere energia elettrica all'impresa che sta sotto a un prezzo inferiore rispetto alle bollette. Ecco, questo è un passaggio che inevitabilmente avverrà, alcuni paesi l'hanno già intrapreso questo percorso, l'Olanda l'anno scorso ha tagliato gli incentivi e quest'anno ha avuto un incremento dell'installazione del 45%. Quindi cioè elementi di speranza ci sono, non è che significa aumentare il fotovoltaico in prossimi anni. Ho capito bene quello. Questa iniezione di energia gratuita, questo è un elemento positivo. Altro elemento positivo è che effettivamente la liberalizzazione sul versante gas potrebbe portare a una riduzione del costo del gas e quindi anche consentire ai cicli combinati di lavorare per esportare energia elettrica. Sul medio periodo questa è una prospettiva fattibile e questo consente di far sì che 25 miliardi di euro che abbiamo speso per impianti ultramoderni con rendimenti del 55-57% possono effettivamente funzionare e non rischiare di spegnere come attualmente risultano. Allora, il futuro che immagino è forte spinta sull'efficienza energetica e tutti sosteniamo che stiamo esaurendo il tempo la soluzione e rinnovabili intelligenti, cioè costruire e rinnovabili intelligenti. Va bene, io ringrazio allora Silvestri, ringrazio Colucci, ringrazio Stagnaro. Vedere per credere.